Mix 24 di Giovanni Minoli. Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato. Ho dei figli, professore. Vai lassù e salvali. Non sai nemmeno quando tornerai. Ma tornerò. Dobbiamo arrivare molto al di là della nostra personale esistenza. Dobbiamo pensare non come individui, ma come specie. Dobbiamo affrontare la realtà del viaggio interstellare. Marv, ti voglio bene. Per sempre. Ecco, questo è il trailer del film Interstellar, a cavallo tra scienza e fantascienza. Paola Catapano è responsabile della comunicazione del CERN, il laboratorio di ricerca più famoso del mondo. Dottoressa Catapano, quanto è reale questa minaccia di cui si parla nel film, cioè quella di restare senza ossigeno e senza cibo? È una minaccia che non è poi così fantascientifica, perché il nostro pianeta in questo momento è maltrattato ed è minacciato da emergenze globali come il cambiamento climatico, la desertificazione e tutte queste minacce a cui l'uomo non sa far fronte, e continua a inquinare, continua a peggiorare la situazione con i ghiacciai che si fondono, le acque che si innalzano, gli tsunami, e quindi potrebbe essere uno scenario realistico, apocalittico, ma insomma... apocalittico nello spazio di 50-100 anni, quindi uno così spazio pochi. Di una vita umana, sì. Ecco, dottoressa Catapano, trovare un luogo, perché questo poi è un po' il senso del film, dove sviluppare la vita dell'uomo oltre la Terra, è un po' il senso delle stazioni spaziali, per esempio come quella dove si trova oggi Samantha Cristoforetti? Sì, certamente, la Stazione Spaziale Internazionale, che è solo a 400 km sopra le nostre teste, è proprio un avamposto dove si sperimenta innanzitutto come si può vivere in assenza di peso, in assenza di ossigeno, creandoci il nostro proprio ossigeno e abituandoci a vivere in un modo diverso. Questo è sicuramente il senso della gran parte degli esperimenti a bordo della stazione, del fatto di averla e tenerla abitata in continuazione. Sì. Appunto. Ecco, sembra tutto lontanissimo, però lei dice forse non è così tanto lontano. Visto che ci stiamo pensando, non da poco, ma la stazione esiste dal 2000, fine degli anni 90, inizio 2000. Quindi non è così tanto lontano questo tempo. Ed è chiamata un avamposto. Samantha Cristoforetti stessa la chiama Avamposto 42, facendo riferimento a un grande libro di fantascienza che è La guida galattica dell'autostoppista. La guida galattica dell'autostoppista stellare. Intanto parliamo di buchi neri. Il pianeta è molto più vicino a Gargantua di quanto pensassi. Gargantua? È il nome dato al buco nero. Atterrando lì saremo pericolosamente vicini. E un buco nero così grande ha una attrazione gravitazionale enorme. Ehi, quanto manca? 3/4 ora. Quanto ci costerà? Brata, e ora siamo prigionieri qui, finché non ci sarà più nessuno sulla Terra da salvare. Ho aspettato anni. Quanti anni sono passati? Ormai devono essere. Sono 23 anni, 4 mesi, 8 giorni. C'è qualche possibilità? Per un modo brillante magari di saltare giù per un buco nero, per riguadagnare gli anni. Il tempo è relativo. Non può scorrere all'indietro, non può farlo. No, la sola cosa che può muoversi tra le dimensioni, come il tempo, è la gravità. Ogni ora passata su quel pianeta sarebbero 7 anni sulla nostra Terra. Questa è la relatività, ragazzi. Dottoressa Catapano, ecco, Interstellar, quanto è credibile dal punto di vista scientifico? Allora, Interstellar ha un consulente scientifico con un pedigree assolutamente impeccabile, che è il professor Kip Thorne del Caltech, il Californian Institute of Technology, che è espertissimo di tutte queste tematiche che abbiamo sentito anche citate nello stesso trailer: la relatività, la gravitazione, i buchi neri, l'attrazione gravitazionale, i viaggi nel tempo, sono tutte conseguenze della teoria della relatività generale di Einstein, che un fisico teorico studia il suo pane quotidiano. E quindi è credibile, cioè a me messo dei limiti, lui allora, è il consulente. Sì, lui è il consulente scientifico, però è stato molto chiaro con i fratelli Nolan, Christopher e Jonathan, regista e sceneggiatore, che gli ha imposto due condizioni. Una, che le leggi della fisica conosciute fossero assolutamente rispettate, ad esempio non si può superare il limite della velocità della luce e trovare altri artifici per poter viaggiare in un'altra galassia. E la seconda è che qualsiasi altra forma di scienza fosse basata su speculazioni almeno matematicamente concepibili se non provate. Quindi ha un fondamento, e questo è vero nel film. Cioè, se... sicuramente le equazioni matematiche alla base, per esempio, dell'animazione 3D del buco nero sono equazioni che ha scritto lo stesso Thorne, che ha proposto agli animatori 3D e che hanno accettato. Hanno accettato e hanno avuto anche un risultato sorprendente scientifico, appunto, una visualizzazione scientifica di un buco nero così come non era mai stato visto prima, e anche con conseguenze nuove, con delle vere e proprie scoperte in fisica teorica. Ad esempio, lo sfondo che si vede una volta fatta l'animazione in questo modo assolutamente scientifico, impeccabile, non è quello che la teoria si aspettava, e c'è uno sfondo quiescente, una regione completamente silenziosa e buia, ma si vede un campo di stelle. Ah. E questo è l'oggetto di una pubblicazione scientifica che Thorne stesso ha firmato assieme agli animatori 3D del film. Senta, i buchi neri in questo scenario del futuro di cui sta parlando, che ruolo hanno? Hanno un doppio ruolo. Intanto una minaccia, infatti lo si sente nel trailer, la trazione gravitazionale è talmente forte in un buco nero che chiunque si avvicini, e questo è fisica nota, viene attratto. Un buco nero è una aberrazione gravitazionale tale per cui anche la luce viene intrappolata e non esce più fuori. Ma in realtà il protagonista sfrutta la spinta gravitazionale del buco nero come una specie di fionda che poi lo proietta verso un cunicolo spazio-temporale, il cosiddetto wormhole. Ecco, infatti questo cunicolo quello di cui parla lei nel film, chi vive questa avventura si trova a ringiovanire. Ringiovanire come mai? Cosa c'entra? Allora, questo è dovuto proprio alla relatività di Einstein. Il paradosso dei gemelli di Einstein è ricreato nel film in modo diverso fra padre e figlia. In realtà chi viaggia quasi alla velocità della luce si trova a deformare lo spazio-tempo. La grande conquista della relatività di Einstein è il fatto che spazio e tempo sono un'unica cosa, non sono due dimensioni separate, sono una cosa unica, per cui quando c'è in presenza di un forte campo gravitazionale lo spazio si dilata, contemporaneamente si dilata il tempo. Questo vuol dire che la persona che si trova in quel punto, il suo tempo rallenta, quindi invecchia lentamente, molto più lentamente di chi rimane sulla Terra. Questo è calcolato anche nel film, il fatto che un'ora sulla Terra, un'ora nello spazio corrisponde a 7 anni sulla Terra, è assolutamente corrispondente all'equazione di Einstein, non neanche di chi, cioè un'equazione nota. Ecco, quando stavate al CERN, stavate per accendere l'acceleratore, oh mio Dio, nel 2008, lo ricordo, molti temevano, se ne è parlato su tutti i giornali del mondo, temevano che avreste fabbricato un buco in laboratorio capace di inghiottire la Terra. Un buco nero, per fortuna non è nato questo buco nero. Ma per fortuna, io dico no, per sfortuna, perché sarebbe stato contentissimo Stephen Hawking. Dipende dai punti di vista, ecco. Ma a marzo però lo riaccenderete con un'energia che è doppia rispetto a quella del 2008. Sì. Dobbiamo preoccuparci per un'altra ipotesi buco nero che ci preoccuparsi mai, perché tutto quello che si crea in laboratorio, noi facciamo il Big Bang in laboratorio, è chiaro che non creiamo altri universi, creiamo le condizioni di densità, temperatura ed energia che sono molto simili a quelle del momento iniziale del Big Bang. In questo caso, se l'energia è sufficiente, si potrebbe riuscire a fare un buco nero, ma in laboratorio vuol dire che sopravvive frazioni di secondo, che è molto piccolo e che serve solo a studiare la fisica. Non ha il tempo per risucchiare tutta la né Terra, né di ingrandirsi né di risucchiare la Terra. Senta, ma anche meno. Sentiamo quest'altro passaggio del film. Vicino a Saturno, una perturbazione dello spazio-tempo. Un wormhole. Dove porta? In un'altra galassia. Quel wormhole ci permette di raggiungere altre stelle. Hanno reso raggiungibili dei mondi potenzialmente abitabili. 12 dai primi viaggi delle sonde. Avete mandato sonde lì dentro? Ci abbiamo mandato degli uomini. È un po' azzardato, non credi? Un sistema con 3 mondi potenziali. Non è azzardato. Ecco, ma esiste scientificamente il wormhole? No? Il wormhole, o cunicolo di Tarlo, è un cosiddetto ponte a Rosen-Einstein, è sempre un derivativo della relatività generale di Einstein. Esiste speculativamente, nessuno l'ha mai visto, nessuno l'ha mai fatto, men che meno in laboratorio, è ancora più difficile di un buco nero. È un ponte spazio-temporale che deriva sempre dalla stessa storia che dicevo prima: lo spazio e il tempo sono un'unica cosa, e quindi ci sono delle aberrazioni spazio-temporali per cui si può creare un passaggio nello spazio-tempo. Ma al CERN state studiandolo questo? I teorici lo studiano sicuramente, in laboratorio siamo molto lontani da raggiungere energie per poter creare queste aberrazioni appunto, però nell'universo le energie ci sono e non è inconcepibile trovare questo passaggio spazio-temporale. Si chiama wormhole perché si rifà all'idea del bruco sulla mela. Il bruco può o fare tutto il giro della mela per andare dall'altra parte oppure scavare il buco in mezzo. La stessa cosa, attraverso lo spazio-tempo si accorcia il passaggio che ci tiene lontani da altri mondi, da altre dimensioni oltre a quella spazio-temporale. Ecco, ma altri mondi, quali altri mondi sono possibili a parte quelli della fantasia di chi scrive di fantascienza? Sono sempre pane quotidiano dei fisici teorici, in particolare dei cosmologi, che studiano l'universo a più dimensioni. Oggi la matematica ci consente equazioni a fino a 11 dimensioni. Questo vuol dire che oltre a spazio e tempo, le due dimensioni spaziali, quella temporale, ce ne sono altre 9, per cui queste rendono possibili universi paralleli, e questo è pane quotidiano dei fisici teorici. Ecco, dottoressa Catapano, ma un'ultima cosa, perché è essenziale studiare lo spazio? È essenziale perché noi ci viviamo in questo spazio e vogliamo sapere dove ci troviamo e che cosa c'è intorno a noi, questo per essere proprio terra-terra, e poi perché studiando lo spazio si imparano tantissime cose e c'è nuova conoscenza è l'unica fonte possibile di progresso anche tecnologico, non solo. Pascal Vicedomini, giornalista, fondatore dell'Istituto Capri nel Mondo, ideatore di Capri Hollywood, il festival del cinema la cui 19ª edizione si terrà appunto a Capri dal 27 dicembre al 2 gennaio. Ecco, Vicedomini, in questa edizione di Caprioli quali sono i punti forti? Ma sicuramente alcune anteprime internazionali, però diciamo il motivo di grande orgoglio è la venuta a Capri di alcune icone dell'arte cinematografica e della musica italiana come Mario Martone, Paolo Virzì, Roberto Faenza, Gabriele Salvatores e soprattutto Francesco De Gregori, Cristiano De Andrei, Cleb Dogo e tanti altri. Vabbè, tanti ospiti. Certo. Ecco, ma com'è nata l'idea di un festival cinematografico a Capri in pieno inverno? Ma sembrava una follia, invece durante l'estate del 95 mi ero reso conto che c'era una forte capacità di attrazione dell'isola dal punto di vista di comunicazione, e dunque ho immaginato che tutto ciò potesse ripetersi anche nel corso dell'inverno. All'inizio sembravo un pazzo. Invece è stato un grande successo, 19 anni. Sì, è stato un crescente successo. All'inizio mi avevano preso per pazzo perché pensavano che appunto fallissi dopo 2 giorni. Ricordo una telefonata critica del mio ex direttore generale di Italia 90, Luca Di Montezemolo, che mi vedeva un po' precario nell'organizzazione da un punto di vista finanziario, e mi disse: guarda, lascia perdere quest'anno, iniziamo l'anno prossimo insieme. Io disse: guarda, avvocato, non c'è verso. Vabbè, avevi ragione. Ho rischiato, ma ero un rischio certo, diciamo. Ecco, hai raccontato che c'è stato però un momento in cui il cotè istituzionale del cinema italiano ti snobbava, un cinema prevalentemente romano, un po' con la puzza sotto il naso, il vizio del siamo tutto solo fra di noi. Ecco, come sei riuscito a entrare? Ma in effetti io da subito ho iniziato ad aprirmi le strade nel mondo. A Washington, ricordo, nel 95 andai al convegno della NIAF, dove c'erano John Travolta, l'allora presidente dell'NPA Jack Valenti, Al Pacino, e alla mia idea di dire: che di fare se facessi un festival a Capri? Tutti quanti molto entusiasti. Pochi giorni prima invece al Festival di Venezia erano molto scettici. Vabbè, insomma, c'è bisogno di un altro festival a Capri. Puntare sul mondo è stata la chiave vincente. Ecco, il principe Alberto di Monaco ti ha affidato le riprese degli Oscar della musica a Monte Carlo, Plácido Domingo, il concerto di Natale a Vienna, Bruce Willis, l'organizzazione della sua festa di compleanno. Ma il segreto qual è di questa chiave internazionale così, così spinta e così di successo? Ma devo dire, affidabilità. Agli artisti bisogna dare sempre certezze e mai fregature, quello che un po' bisognerebbe fare con chiunque. Gli artisti hanno bisogno di attenzione, bisogna un po' coccolarli, e poi però dopo, come dire, il ritorno è certo. E perché... poi c'è Capri. Ci sono le perle del Golfo di Napoli, perché anche durante l'estate a Ischia c'è un altro evento strategico che ha rilanciato l'isola agli occhi del mondo. E quindi la valorizzazione del territorio e le relazioni sono i segreti del successo. Assolutamente. assolutamente, assolutamente. In Italia potrebbe vivere 12 mesi all'anno di cultura e turismo. Ahimè, a fine settembre chiudono i battenti del mezzogiorno e tutto ciò è veramente deprecabile. Noi a Capri dal 95 cerchiamo di fare un'attività che propone la destagionalizzazione come strumento di occupazione giovanile. Certo. E come si svolge Capri Hollywood? Capri Hollywood è una rassegna con premiazioni, un modo per stare insieme, per comunicare, per fare mercato in maniera informale. E dove si tengono le proiezioni? Le proiezioni si tengono quest'anno esclusivamente al Cinema Paradiso di Anna Capri, gli altri anni sempre ci siamo alternati tra Capri e l'isola. È una grande festa, un momento di grande comunicazione tra la realtà popolare dell'isola e della campagna del mezzogiorno e Hollywood. Ecco, e qual è l'ultima domanda, qual è il film che sei stato più orgoglioso di aver avuto a Capri? Tanti, diciamo che sono molto orgoglioso quest'anno di vedere sullo stesso palcoscenico Mario Martone e Francesco De Gregori, dopo che a Los Angeles lo scorso febbraio abbiamo avuto la serata inaugurale Al Pacino, U2, insieme agli italiani Roberto Faenza e Paolo Genovese. Sembrano cose da poco, invece sono cose che un poi... Un grande successo. Assolutamente, sì. Qualunque cosa tu faccia con il tuo televisore, il canone è un'imposta obbligatoria legata al suo possesso. È la tassa più odiata ed evasa dagli italiani. Il canone scade il 31 gennaio. Il nostro impegno, invece, continua tutto l'anno, con 14 canali in chiaro, davvero al servizio di tutti. Non si paga il canone Rai, punto, basta. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Un canone ha senso se fai un servizio nazionale. Cosa insegna la Rai oggi? Nulla. Mi sembra un po' strano metterlo nella bolletta elettrica. La fretta sul canone è legata a uno spot molto popolare che il governo vuole fare. In questo modo, secondo l'esecutivo, l'imposta sarebbe impossibile da non pagare. Pagando di meno, ma pagandolo tutti, si riesca in ogni caso a ottenere lo stesso gettito di almeno 1,7 miliardi di euro. Sicuramente non lo vedo in bolletta, perché penso che non semplifichi la vita dei cittadini, sarebbe un errore. Abbiamo fatto una proposta sull'IRPEF. Non c'è alcuna ragione per cui lo Stato controlli un'azienda delle dimensioni della RAI che invece è costosa, inefficiente e si becca il canone. 2016, cioè domani mattina, scade la concessione della RAI. In Inghilterra la BBC ha aperto nel paese un dibattito su che cosa deve fare la televisione pubblica. Da 2 anni che lo fanno. In Italia non ne parla nessuno. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Professor Daniele Doglio, buongiorno. Buongiorno. In Italia invece del canone se ne parla in un modo superficiale, come modo di risolvere il problema della RAI mettendolo nella bolletta della luce per evitare l'evasione. È una strada? Diciamo, tra tutte le possibili è quella che a me appare meno convincente, però capisco anche che se si decide di parlare di servizio pubblico partendo dalla necessità di risolvere il problema della RAI e non ponendosi la questione di che cosa deve essere un servizio pubblico, di questo ne parliamo. Allora, ma ci sono altri paesi che hanno fatto così, i paesi europei? Che io sappia, purtroppo i paesi che l'hanno fatto non sono né comparabili, perché né Macedonia né Cipro sono paesi comparabili, certo, con l'Italia, certo. E l'unico che l'ha fatto davvero è la Grecia, e come si sa la televisione pubblica greca è fallita due anni fa, e quindi evidentemente non funziona. Ma risolverebbe comunque in Italia economicamente almeno il problema della RAI questa strada? Ma guardi, io ho fatto un conto molto rapido. Sì. Se davvero la linea proposta dal governo è quella di ridurre il canone del 50%, e badate che nessun paese europeo sta parlando di ridurre il canone, certo, e di metterlo in bolletta elettrica, le utenze elettriche sono circa 30 milioni, 6 per 30 fa circa 1,8 miliardi, cioè tutto sto scarmazzo per portare a casa il 10% in più di quello che oggi la RAI porta a casa dal canone, col 27%, come è dichiarato, di evasione. Non mi sembra un risultato molto convincente, a meno che non si decida di rinunciare alla pubblicità. Ecco, è l'altra fonte degli introiti, appunto, la pubblicità. Non se ne parla, ma in Italia è sui livelli degli altri servizi pubblici europei la pubblicità per la RAI? Eh, no, ahimè è un'altra delle distonie del caso Italia e del caso Rai, perché la pubblicità in Rai ha rappresentato fino anche al 45% degli introiti complessivi, adesso è intorno al 30-32%, perché con la crisi è una risorsa che è andata calando per tutti, certo, anche per il concorrente, ma i livelli medi europei sono massimo intorno al 5% per la Germania, 4%, in Francia la stanno togliendo del tutto, in Spagna l'hanno tolta, in Gran Bretagna non c'è mai stata, cioè no, il livello medio europeo no, è intorno al 4-5%, ecco, non il 30%. Ah, esatto. Ecco, professor Doglio, ma lei un po' l'ha detto, ma si può parlare della riforma della RAI a partire dal finanziamento del canone e non da che cosa deve essere un nuovo servizio pubblico in un'era multipiattaforma? Assolutamente, questa è la più grossa delusione, se posso dire, perché io ero di quelli che si erano illusi, l'aveva anche scritto pubblicamente, complimentandosi col governo, che sembrava aver iniziato una strategia, una procedura giusta, cioè lanciare il tema, lanciare un libro bianco, un libro verde con le sue ipotesi di soluzione, aprire un grande dibattito nazionale su quello che avrebbe o dovrebbe essere oggi un servizio pubblico in un'epoca dove sono cambiati tutti i riferimenti e i parametri, e poi andare progressivamente nel giro di 6 mesi, un anno, al rinnovo della concessione, esatto, con una definizione discussa e condivisa. Ecco. Di tutto questo, che aveva un cronoprogramma, sa come piacerebbe, sì, cronoprogramma a luglio, a settembre, non è successo nulla. Ecco. L'unica cosa sono delle anticipazioni, delle indiscrezioni, quasi che dovesse andare a cercare di tastare il polso all'opinione pubblica, ecco, più che fare una proposta. Ecco, professor Doglio, ma allora, per come la mette lei, la ritiene solo demagogia contro la tassa più odiata dagli italiani, insomma, partire dal canone? Mi deluderebbe molto, ma la sensazione in questo momento è che sia un'operazione che così sembra appartenere ai tempi del cavaliere, più che altro, insomma. Ecco, ma come sta procedendo allora l'omologo percorso per il rinnovamento della BBC, che ha più o meno gli stessi tempi? Ma un sistema procedurale molto preciso. Intanto c'è l'assoluta, nei limiti del possibile, indipendenza del potere politico, poi c'è l'autogoverno, per cui tutto quello che BBC fa lo fa perché lo decide lei, sua sponte, e lo verifica al suo interno. Hanno iniziato un processo di riduzione di spesa molto molto forte per presentarsi all'appuntamento del 2015-2016 con i conti veramente in ordine, hanno realizzato risparmi molto notevoli, hanno aperto un cantiere di dibattito in cui si discute con gli stakeholders, con i portatori di interesse, con le associazioni degli ascoltatori, con i gruppi di ascolto, con tutti quelli che hanno qualcosa da dire, e piano piano stanno avvicinandosi a una ridefinizione. Ecco, ma professor Doglio, quanto si spende in concreto dopo questa riduzione, tagli, eccetera, per la gestione amministrativa? Guardi, è un dato impressionante, perché in 5 anni loro sono riusciti a risparmiare quasi 5 miliardi e mezzo di sterline su 30 incassati, quindi comunque un 20%, e oggi possono dichiarare con assoluta trasparenza che la spesa nelle funzioni fondamentali, cioè produzione e organizzazione della programmazione, è l'88%. I costi amministrativi e il carattere generale sono stati ridotti al 12%. 12% a gestione e 88% investimento sul prodotto. Esattamente. Ecco, ma è vero che solo il canone, è tutto dal canone. Ah, certo, ma è vero che è stato realizzato un prepensionamento del 50% dei dirigenti apicali? Assolutamente sì, e non solo dei dirigenti, evidentemente sono state effettuate delle chiusure, è evidente che c'erano degli sprechi, perché riuscire a risparmiare 1 miliardo di sterline all'anno per 5 anni vuol dire che hanno messo mano davvero a un lavoro di grande pulizia. Però sì, ce l'hanno fatta, sono in grado di presentarsi al pubblico dicendo: questi sono i numeri, questi sono i costi, questo è il canone e questo è come lo spendiamo. E questo è il progetto editoriale. E dal punto di vista del progetto editoriale, cioè dal lato dell'offerta, che cosa è cambiato rispetto a prima? Per il momento la cosa più importante è la decisione comunicata dalla direzione generale, che in questo senso è autonoma nel potere esecutivo già a giugno, di chiudere il canale 3, il BBC 3, trasferendolo tutto online, cioè togliendolo dall'offerta digitale terrestre e mettendolo esclusivamente online. Sì. È una cosa importante, perché vuol dire un risparmio di circa 100 milioni di sterline l'anno, che la direzione pensa di riallocare su un miglioramento dal punto di vista quantitativo dell'offerta di programmi originali del canale per bambini piccoli, CBBC. Perché puntano molto come servizio pubblico a occuparsi dei bambini. Certo, hanno due canali, sono il più grande produttore di servizio pubblico di programmi per bambini del mondo e quindi evidentemente hanno anche un motivo per occuparsene. Quindi, questo è un esempio, hanno deciso di mettere mano a questa cosa. E hanno ridotto i canali anche, no? Togliendo un canale scendono da 7 a 6, ricordiamoci che la Rai ne ha 14, come diceva anche il vostro spot, perché questa è un'altra delle follie di questo paese. E poi c'è un elemento che secondo me è interessante, è che questa decisione, che è una decisione esecutiva del direttore, per essere definitivamente approvata deve passare attraverso di nuovo una procedura di verifica che il BBC Trust, che è l'organo di autogoverno, farà, convocando i comizi, convocando incontri con di nuovo le associazioni degli ascoltatori, i gruppi di ascolto, le associazioni dei gruppi di interesse, per valutare se l'uscita di questo canale dall'offerta digitale terrestre non abbia un impatto troppo grande sull'offerta di servizio pubblico. Ecco, ma questo naturalmente si fa a partire da un progetto definito e presentabile, cioè il servizio pubblico, dice la BBC, per noi è questo. Ve lo diciamo, ve lo raccontiamo e voi diteci cosa ne pensate. E stiamo tutti attendendo con grande ansia di sapere alla fine di questo processo quale sarà, perché BBC è sempre stato, diciamo, il leader mondiale. Certo. E si spera che anche questa volta batta un colpo, perché non è facile questa volta. No, questa volta la partita colpo, è molto complicata. Un colpo che serva a tutti. Comunque una differenza di metodo di fronte alle stesse scadenze che fa impressione. Assolutamente. X24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Monsignor Vincenzo Paglia, consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio, vescovo emerito di Terni, Narni e Amelia, presidente della Federazione Biblica Cattolica, autore di molti libri di successo, l'ultimo Storia della povertà, la rivoluzione della carità dalle radici del cristianesimo alla chiesa di Papa Francesco. Oggi è anche il presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia. Ecco, Monsignor Paglia, Don Paglia, se posso. Grazie. Ecco, dopo questo sinodo, l'indissolubilità del matrimonio è diventata un valore negoziabile? Assolutamente no, resta salda in tutto il suo valore. Ecco, il Papa però ha detto che l'espressione valori non negoziabili non gli piace, a lei piace? A me no, perché si negoziano troppe cose, ovunque, anche lì, quindi è bene chiamare le dimensioni della vita, gli alti valori della vita. Però è un'espressione che aveva usato anche Benedetto XVI. Sì, l'aveva usata quando era prefetto della congregazione per la dottrina della fede, ma era intesa in un momento di forte dialettica. Oggi è passato quel tempo. Senta, Don Paglia, per quanto ne sa lei, qual è il rapporto reale tra Papa Francesco e Papa Benedetto? È quello di un'intensa amicizia, poi Papa Francesco scherzando dice io faccio vedere a tutti che il nonno lo tengo in casa. Non lo butta via? Assolutamente no. È una lezione, insomma. Ecco, dal suo osservatorio di presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, come giudica il dibattito sui diritti degli omosessuali che è avvenuto all'interno del Sinodo? Io distinguerei due piani. Un piano è il diritto delle persone che va salvaguardato assolutamente, un altro ancora è quello di scartare e tagliare radicalmente ogni tipo di razzismo, omofobia, emarginazione. Altra cosa è il discorso sulla famiglia. Da che mondo è mondo? La famiglia è un uomo, una donna che fanno dei figli, perché questa è la generazione. Altra cosa, prevista peraltro dalla Costituzione italiana, sono le convivenze non familiari, e qui va bene. E lei come ha votato? Io ho votato contro, diciamo, ogni discriminazione, però ad esempio quando si parla di adozioni ho detto io vorrei che si parlasse dell'adozione in generale da parte di tutti, e oggi in Italia il problema è che la legislazione è troppo severa e ci sono nel mondo 170 milioni di bambini abbandonati che aspettano. Senta, ma è un bene per la Chiesa questa assoluta trasparenza delle posizioni nel sinodo su tutti i temi? Assolutamente sì. Cioè una conquista, maggioranza e minoranza sono entrate esplicitamente nella Chiesa. Ma io direi che è anche un po' più complesso, perché maggioranza e minoranza non è che si dividono come destra e sinistra nelle società ordinarie. La Chiesa è anche un po' strana, sì, nel senso che la sua forza non è solo quella degli uomini, c'è anche una dimensione, come il Papa stesso ha richiamato, io sono il garante dell'unità, cioè, come dire, discutete e poi decido io. E in base a quello che ho ascoltato. Senta, ma vabbè, per un po' di democrazia è entrata. Ottima. Senta, Don Paglia, lei sa di cardinali, perché la guerra comunque è stata dura, andati a cercare l'appoggio di Benedetto XVI per difendere la tradizione? Ne ha sentito parlare? Ne sa qualcosa? Ho letto sui giornali, se ci sono andati è grave, non lo so però. Del suo libro, Storia della povertà, dicevamo prima, Eugenio Scalfari su Repubblica ha fatto questa sintesi. Paglia ama i poveri come se stesso, si riconosce? Direi di sì, anche cerco di farlo perché è una dimensione alta. Non è così alta. Facile, eh? Esattamente. Ecco, ma in che modo la povertà ha segnato la sua vita orientandola? La mia vita è stata segnata, soprattutto partendo con la comunità di Sant'Egidio, dalla impossibilità di vivere la vita bella, vera e felice, vedendo altri che erano esclusi. Ecco, appunto, a proposito di questo, lei è stato, Monsignor Don Paglia, a lungo vescovo di Terni, città che oggi è segnata dalla drammatica crisi dell'acciaio, una città che sta per morire. Cosa vuol dire per la Chiesa locale essere povero tra i poveri? Vuol dire farsi carico di tutte le ansie, i problemi e le speranze dei poveri. In questo senso io a Terni ho voluto mischiarmi con la vita della città, compresa quella delle acciaierie, lottando per la difesa del lavoro, per la difesa delle famiglie, per la difesa dei poveri, perché una chiesa che si apparta, fosse anche bellissima, è sempre un ghetto. Ecco, ma questa è una scelta quindi inevitabile per chi crede veramente in Gesù Cristo? Assolutamente sì. Ecco, ma lei, Don Paglia, quando ha capito che credere in Gesù Cristo era la sua strada? Ma vede, ognuno lo crede in età magari diversa e in maniera diversa, però io ricordo quando avevo 10 anni io volevo farmi prete perché volevo farmi prete. È chiaro che poi l'ho capito meglio e non c'è dubbio che una volta diventato prete ho capito con maggior chiarezza, era il 68, ho capito con chiarezza che la felicità era legarsi a chi veniva abbandonato. Ecco, ma fare una scelta così radicale, così piccolo, ma si può? Sì. Si può, e io devo dire, mi meraviglia ancora, però io lo ricordo con estrema chiarezza. Ancora soddisfatto, insomma. Il problema è maturarla nel corso degli anni. Certo. In questo senso c'è bisogno di una continua riflessione e responsabilità. E la cosa più difficile cosa è stata? È stato il momento del per sempre. Allora in quel momento è chiaro che le difficoltà si addensano, ma l'aiuto degli amici e soprattutto la preghiera mi ha aiutato a prendere una decisione che poi, grazie a Dio, ancora oggi non solo non rinego, ma dico meno male che l'ho fatta. Guarda gli altri e dice: senta Don Paglia, la storia della Chiesa è una storia di santi e di amore per i poveri, però è anche una storia di ricchezza, di potere, una contraddizione insanabile, eh? Ma il Vangelo dice che non c'è possibilità di raccordo tra Dio e Mammona e il denaro, e ogni volta che i due si avvicinano troppo è un problema. Però si sono avvicinati tante volte nella storia della Chiesa. Si sono abbracciati, sposati, e qui il divorzio è importante, dice. Ma qual è il problema? Allora uno dice, ma allora i ricchi non possono salvarsi? E infatti in un libretto del secondo secolo un autore ad Alessandria d'Egitto scrisse: quale ricco può salvarsi. Quindi ci sono anche quelli che si possono salvare. Si salvano coloro che si accorgono dei più poveri e si lasciano toccare. Ecco, però sulla povertà e sull'amore per i poveri, fin dall'inizio, appunto, diceva anche lei, tra San Pietro e San Paolo c'è stato un grande scontro. Qual era lo scontro? Ma direi anche prima di loro, capitolo sesto degli Atti degli Apostoli. Lo scontro ci fu quando i cristiani di Gerusalemme aiutavano solo le vedove nate a Gerusalemme e non aiutavano le vedove degli immigrati. Ah, quindi c'era un po' di razzismo. Esattamente. In quel momento accadde il primo scontro. E fra Pietro e Paolo? Non fra Pietro e Paolo, ma fra gli apostoli e un gruppo tra gli immigrati di allora e gli etnici di allora di Gerusalemme. Quindi gli ultimi saranno i primi, sì, però i miei più degli altri. Esatto, e fortunatamente vinse l'altro partito. Senta, Don Paglia, lei è l'assistente spirituale della comunità di Sant'Egidio, l'abbiamo detto, a Roma, che aiuta i poveri, gli è riconosciuto, ma che è anche un centro di potere che esercita. Qui come stanno insieme le due cose? Dunque, io non mi scandalizzo della parola potere. Gesù lo dice ai discepoli: io vi do il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire e di comunicare il Vangelo. Il problema è per che cosa lo si usa, è qui il nodo di fondo. Certo. Allora il potere, io personalmente a mani nude ho parlato anche con dittatori per convincerli a non fare la guerra, per convincerli a rispettare i diritti. In questo caso... Quindi non sente la contraddizione? No. Non sente una contraddizione? Il problema è il fine. E come usarlo? Senta, ma come finanziate voi le vostre attività? Chiedendo l'elemosina, soprattutto a chi c'ha i soldi. Ah, quindi l'elemosina di ricchi, insomma, prevalentemente. E un mio amico diceva che i soldi si chiedono a chi ce li ha. Ah sì, pecunia non olet. Senta. No, non è detto che non olet. Ah, vabbè, un po' olet ogni tanto. Sì, come? Ecco, Don Paglia, per esempio, nelle ultime elezioni voi avete sostenuto Monti e il suo partito. Cosa c'entra con voi? No, io toglierei il voi. Qualcuno della comunità di Sant'Egidio ha scelto, in un momento particolarmente problematico per l'Italia, di fare questa piccola esperienza. Quindi non è legata affatto, e lo dicevamo fin dall'inizio, alla comunità di Sant'Egidio come tale. Vabbè, distinti i ruoli. Ecco, il potere però è stato spesso usato per abusare dei più deboli. La pedofilia lo sta qui a testimoniare. È difficile da accettare, però la storia dice che è andata proprio così. Allora, saperlo, dirlo, pagarne le conseguenze, è questo il primo passo avanti? Assolutamente sì. Ed è un passo irreversibile? Io credo che deve essere irreversibile, anche perché come credenti noi siamo comunque ogni giorno chiamati a convertirci, cioè a riposizionarci, a riorientarci. È per questo che dobbiamo leggere ogni giorno il Vangelo. Ma perché è così difficile estirpare la pedofilia dentro la Chiesa? Ma io credo che dipenda un po' da una cultura, intendiamoci. Qui io vorrei che si ponesse attenzione anche alla pedofilia in senso molto più largo. Sì, vabbè, nella Chiesa è più grave. Però. Nella Chiesa è più grave perché la richiesta è più alta. Certo. Ma va stroncata senza sola pietà. Ecco, dov'è secondo lei il riscatto storico della Chiesa? Il riscatto storico è quello che sta facendo Papa Francesco, cioè una scelta chiara per i più deboli, per i più poveri, pagando di persona. Ecco, ma tra l'amore per gli altri, per gli ultimi e il socialismo, c'è una parentela stretta? Direi che la parentela c'è, non è stretta, perché l'amore per gli ultimi che parte dal Vangelo è gratuito. Papa Francesco è il primo Papa sudamericano. Quanta teologia della liberazione c'è nel suo pensiero, nella sua azione? C'è, direi, tutta la teologia della liberazione di Paolo VI. Non a caso ha voluto beatificarlo. Quindi una teologia della liberazione che non nasce da un'analisi marxista, ma da una passione per i più deboli, che era quella spiccatamente evangelica. Mix 24. Don Paglia, lei è il presidente, l'abbiamo detto, del Consiglio Pontificio della Famiglia. È favorevole ai sacramenti per i divorziati oppure no? Io sono favorevole in alcuni casi, quindi né libera tutti né chiuso tutto. Però la possibilità resta. È forzato dire che in questo sinodo per la prima volta c'è stato del malumore verso il Papa? Direi, non so se è malumore, però non c'è dubbio che se potessi paragonare il dibattito ai pistoni di un motore, i pistoni non hanno sempre funzionato sincronicamente. Non sempre sincronicamente. No, però grazie a Dio la macchina è uscita dal box. Quindi lei dice che la Chiesa ha ritrovato la sua missione originaria, questo lo dice nel suo libro, quando si è affidata al monachesimo. Ecco, perché? O meglio, direi che la Chiesa, quando fece i patti con la città, quindi con le ambiguità della città, alcuni laici, perché tali erano i monaci, come lo saranno poi i francescani, alcuni laici decisero di rivivere l'utopia evangelica, quindi abbandonarono la città, andarono nel deserto, non per far penitenza come in genere si crede, ma per ricostruire una città alternativa, diversa, dove il bene non fosse quello di ciascuno, ma quello di tutti. Ecco, ma in che modo Papa Francesco è erede della tradizione monastica della Chiesa? Se lo è. Erede, al di là del nome, naturalmente. Erede della tradizione di coloro che appunto vogliono costruire, a partire dal Vangelo, una profezia bella per tutti, dove l'amore, la solidarietà, la fraternità siano davvero non negoziabili. Ecco, ma il monachesimo che c'entra? Perché in particolare il monachesimo? Perché il monachesimo ha fondato quella che si chiama la vita comune, la comunione dei beni, l'obbedienza anche all'abate, che deve essere Abbas, cioè padre. Insomma, il cristianesimo deve essere l'anima di un modo diverso di stare assieme, se no è nulla, oppure un po' di folklore. In questo senso Papa Francesco dice: dobbiamo uscire dalle chiese e dalle sacrestie per ridare un'anima ad un mondo che l'ha persa. Troppa gente vive solo per se stessa. Dobbiamo ricostruire un tessuto solidale che mette insieme tutte le diversità per il bene di tutti. Ecco, Don Paglia, parlando di Sud America, lei è il postulatore della causa della beatificazione di Monsignor Romero, che è stato ucciso in Salvador. Perché dovrebbe essere santificato Romero? Qual è la sua caratteristica? Perché Romero è esattamente la profezia di una Chiesa che vuole il bene di tutti. Cioè, chi era Romero per i nostri ascoltatori? Romero era un grande arcivescovo che si trovava ad essere guida spirituale di un popolo in Salvador, dove lo sfruttamento del paese era in mano a 9 famiglie. Costoro schiavizzavano tutti. Romero ha voluto come ridare dignità a un popolo. Più volte ha detto a questi responsabili di piegarsi e di aiutare i più deboli. Quando non obbedirono a questo suo comando, anzi... Ma era un conservatore? Romero inizialmente, potremmo anche dire così, infatti nella Chiesa è difficile dividere conservatori e progressisti secondo gli schemi ordinari. Romero era uno che si era lasciato affascinare dal Vangelo e sentiva la responsabilità della giustizia. Per Senti, questo l'hanno ammazzato. Ma ed è un santo eventuale nella linea di Papa Francesco? Assolutamente sì, non solo perché sono due sudamericani che hanno dovuto confrontarsi con masse di diseredati, ma soprattutto perché c'è come un calore comune che unisce questi due testimoni, quello di una passione per una vita più bella per tutti. Ecco, ma essere presidente del Consiglio per la Famiglia e non avere la famiglia è un problema? Anzitutto, grazie a Dio, ho avuto anch'io una famiglia. No, naturalmente. Ho altre famiglie accanto a me. No. E poi studio, leggo, mi confronto e direi che non è questo il punto. No. No, il punto vero è non essere da soli, ma avere una grande, Paolo VI diceva, una immensa passione, perché è evidente a tutti, a chi ce l'ha e a chi non ce l'ha, che la famiglia è il vero motore della storia. Senta, Don Paglia, per la prima volta c'è un Papa che è un gesuita. Cosa vuol dire Papa e Gesuita? Fino a prima di Papa Francesco erano due termini forse impossibili da coniugare. Oggi sono straordinariamente uniti. Ecco, ma perché erano impossibili da coniugare? Perché la Chiesa non ha mai voluto non ha mai fatto un Papa Gesuita, adesso l'ha fatto. È chiaro che, detto così, è ovvio che non è un dogma, è un fatto storico. Probabilmente la forza e la potenza di un ordine come quello dei Gesuiti li ha fatti sempre vedere come consiglieri, mai come primi attori della politica. Era meglio non avere troppo potere. E infatti il generale dei Gesuiti viene chiamato Papa Nero, esatto. Quindi lo volevano già da loro. Quindi adesso c'hanno due papi i Gesuiti. E in un certo senso direi di sì. Accidenti, più uno in pensione, tre papi, siamo a tre papi. Senta, ma dove, questa è l'ultima cosa che le voglio chiedere, dove e in che modo e come si capisce che Papa Francesco è prima di tutto un gesuita? Perché credo che un gesuita è un gesuita prima di tutto. Si capisce dalla determinazione con cui decide. C'è una, tra virgolette, una solitudine che per i gesuiti è pane quotidiano, che il Papa ha preso e ce l'ha spiegato bene nel Sinodo, quando ha martellato le due estreme, chi vuole rinchiudersi e chi vuole invece uscire senza criterio. E lui ha detto: il Papa sono io. Io garantisco l'unità. In questo senso c'è una solitudine alta, terribile per un certo senso. Però in questo il Papa Francesco è aiutato dal suo essere gesuita.